1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora sono le 7:19 minuti, siamo pronti qui, mentre, cari italiani, come sapete, è già iniziata abbondantemente la 74esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. E voi che fate? Avanti, avanti! Noi parleremo oggi della direzione del PD. È un po' il tema d'apertura di tutti i quotidiani, cioè ce la farà Renzi a far passare la riforma del lavoro? Pare proprio di sì, alla direzione i numeri sono tutti per Renzi, ma poi che succederà? Avremo ospiti, tornano con noi Claudio Cerasa del Foglio e Claudio Velardi che ci commenteranno la situazione, cosa ci aspetta questa giornata. Avremo ospite anche Maurizio Paniz, ve lo ricordate, ex onorevole di Forza Italia, che punta, così pare, o spera, sogna di puntare alla Corte Costituzionale, dove c'è lo stallo per l'elezione dei due membri della Corte Costituzionale. Da giorni ormai, non so neanche quante votazioni sono andate vuote, sono andate buche in Parlamento, e ora timidamente avanza la sua candidatura. Maurizio Paniz, l'avvocato Paniz, sarà il nostro ospite alle 8:45. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 29 settembre, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre così nell'edizione del lunedì: fisco, tassa piatta al 15% su mini imprese e autonomi. Tutti i quotidiani aprono di fatto sulla riforma del lavoro e oggi Renzi alla direzione del PD. Ieri Renzi è andato da Fabio Fazio, e quindi i titoli dei giornali sono dedicati a quello. Per il Corriere della Sera: cancelliamo i contratti precari, il premier in TV. Renzi all'attacco sull'articolo 18. La Repubblica: via i contratti precari sull'articolo 18, non medio nel PD. Il Messaggero: Renzi stoppa i contratti precari. La Stampa: tratto coi lavoratori, non nel PD. E poi Il Secolo XIX: Renzi via i precari, TFR in busta paga. L'anticipazione che c'era qualche giorno fa sul Sole 24 Ore sembra confermata ieri da Renzi, di anticipare il TFR in busta paga. Il Giornale: i segreti di Della Valle, l'ultimo anti-Renzi. Questi alcuni dei titoli. Voglio iniziare però dalla lettura di alcuni articoli. Il primo è sul tema dei vitalizi, sui quali ci siamo concentrati la scorsa settimana, perché il Messaggero, che sta facendo una campagna su questo, racconta in anteprima alcune novità che potrebbero essere in arrivo. Lo fanno Mauro Evangelisti e Diodato Pirone a pagina 7. Il titolo è questo: stretta sui vitalizi d'oro, ex consiglieri in rivolta. Ne abbiamo parlato con il sottosegretario Zanetti, sottosegretario all'economia, che ha proposto una riforma costituzionale per rivedere anche i precedenti già diritti acquisiti dei vitaliziati. Ebbene, racconta il Messaggero, stanno per arrivare tagli ai vitalizi in tutte le regioni italiane. Dopo le indigestioni del passato, quando bastava un posto al sole in un consiglio regionale, magari nel listino del presidente, senza neppure il disturbo di cercare preferenze per maturare una mega pensione a 50 anni, ora si cerca di correre ai ripari. Nei giorni scorsi si è riunita la conferenza dei presidenti dei consigli regionali e tutti insieme hanno deciso di fare qualcosa. Eros Brega, presidente del Consiglio dell'Umbria, ha ricevuto l'incarico di preparare una proposta per quanto possibile omogenea per tutte le regioni, anche se alcune, in particolare Trentino e Lombardia, hanno già iniziato in proprio a sforbiciare alla grande. Secondo indiscrezioni, scrive il Messaggero, sono tre gli interventi generali su cui si sta lavorando. Uno, innalzare l'età di accesso al vitalizio per gli ex consiglieri che ancora non hanno maturato l'assegno, da 60 a 65 anni. Due, porre un tetto al cumulo dei vitalizi, visto che c'è chi ne ha maturati due o anche tre. E infine, tre, esaminare la possibilità di un tetto massimo al vitalizio intorno ai 6.000 euro netti. Il vero problema, infatti, racconta il Messaggero, che la spesa per i vitalizi sta diventando economicamente insostenibile. Nel Lazio assorbe il 33% delle risorse del Consiglio. La Regione Veto spende molto di più per i suoi ex consiglieri che per gli stipendi dei consiglieri in attività. E l'anno prossimo vanno al voto 9 regioni, come previsto i non eletti. Potrebbero avere nuovi vitalizi e quindi accumulare costi per le regioni. Insomma, il Messaggero racconta, si sta cercando di dare un taglio a questi vitalizi. A proposito di tagli, oggi il Corriere Economia con Sergio Rizzo racconta, nell'inserto di Corriere Economia in prima pagina, quella che è l'oasi felice per l'esercito dei dipendenti pubblici. Sapete qual è? È la Calabria, così almeno racconta Sergio Rizzo, dove le sole aziende partecipate triplicano il personale della regione. 300 milioni, tenete a mente questa cifra, più o meno 150 euro l'anno per ogni cittadino calabrese, neonati compresi. 150 euro per ogni cittadino calabrese. Costa tanto, secondo la Corte dei Conti, retribuire i dipendenti delle società partecipate e di vari enti pubblici di diritto privato della Regione Calabria. Sono un esercito. Ne sono stati censiti 9.201. Per capirci, sono più del triplo del personale regionale. Le sole società partecipate, in numero di 22, hanno 1.805 dipendenti, al netto di quelle che non hanno neppure comunicato i dati alla magistratura contabile, come per esempio l'aeroporto Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, che ha 31 addetti. Una società di cui la regione controlla il 14% ed è già costata una barca di soldi, 1,3 milioni di perdite nel 2008, 1,1 milioni di perdite nel 2009, 788 mila perdite nel 2010. Oppure l'Ocride Sviluppo, che a fronte di 5 consiglieri di amministrazione, 3 revisori, 2 sindaci supplenti, dichiara alla Camera di Commercio un solo dipendente. E così via, ma insomma l'esercito dei dipendenti pubblici è l'oasi calabrese, racconta Sergio Rizzo, le sole partecipate hanno il triplo dei dipendenti della Regione Calabria. Ma a proposito di tagli, vabbè, lo so che mi faccio come dire iniziare la settimana con questo dolce atteggiamento con cui poi affronterete le vostre quotidiane fatiche, Ebbene, sappiate che Grasso e Boldrini, presidente di Senato e Camera, ora dicono basta. Domani, ore 11, sono convocati gli uffici di presidenza di Camera e Senato, perché l'obiettivo è quello di mettere finalmente, non si sa se ce la faranno, questo limite di 240.000 euro massimo ai dipendenti di Camera e Senato, come avviene per i dipendenti della pubblica amministrazione, perché sapete che lì c'è l'autodichia e quindi se non c'è una iniziativa autonoma che vale per Camera e Senato non si può fare il tetto della pubblica amministrazione. Domani due uffici di presidenza imporranno i tetti per tutti i livelli, racconta Carmelo Lopapa su Repubblica, pagina 11. Nessuno supererà più i 240.000 euro. I più colpiti saranno i segretari generali della Camera, Ugo Zampetti, e del Senato, Elisabetta Serafin, che finora percepiscono fino a 478.000 euro lordi. Arriveranno a 240.000. Ce la faranno i presidenti di Camera e Senato a imporre questo tetto? Se la dovranno vedere con 21 sigle sindacali pronte a dare battaglia e giura Repubblica pronte a fare ricorso ai giudici del lavoro. E vabbè, era questo il premio Mani sul Volante, se non l'avete capito, l'articolo che ci fa più zare di questa giornata. Andiamo alla pubblicità. Ma prima c'è Alessandro Milan, una gloria radiofonica. Ci fermiamo. E Eccoci qui, le 7:32 minuti, allora il gran giorno della direzione del Partito Democratico alle 17, credo sia stata convocata. Ieri ovviamente fuochi d'artificio, Susanna Camusso ospite di Lucia Annunziata in mezz'ora, Matteo Renzi in serata ospite da Fabio Fazio, le ultime schermaglie verbali sulla questione della riforma del lavoro. Cosa ha detto il premier Matteo Renzi ieri a Rai 3? Lo racconta pagina 2 del Corriere della Sera. Marco Galluzzo racconta: la mediazione non si fa dentro il PD ma coi lavoratori, la sinistra affezionata ai totem, alle memorie, va bene per il museo delle cere. E ancora risponde all'intervista di Massimo D'Alema, che ieri l'ha attaccato duramente sul Corriere della Sera: il mio obiettivo non è far contento D'Alema ma la mamma che non ha diritto alla maternità. E ancora Renzi: non cancelliamo solo l'articolo 18 ma cancelliamo tutte le forme di co-co-co, di precariato. Oggi esiste un diritto che è in mano a un giudice: se l'imprenditore deve fare a meno di alcune persone deve poterlo fare. Ma non è questo il punto, tutti stanno parlando solo di un pezzetto piccolo del mercato, una battaglia ideologica della sinistra. E poi ecco qui l'affondo al sindacato: il sindacato che viene a farci lezioni dopo essersi dimenticato di tutti è proprio l'unico a non applicare l'articolo 18 per chi ha più di 15 dipendenti. Questo insunto, quello che ha detto Matteo Renzi ieri, insomma, si va allo scontro frontale, nessuna mediazione, medio con i lavoratori ma non medio all'interno del PD. Tra l'altro Monica Guerzoni a pagina 3 del Corriere della Sera racconta quelli che sono i numeri sono blindati in direzione. Tutti fanno sapere che Renzi controlla il 68% dei 200 membri della direzione, quindi i numeri sono assolutamente in direzione della sua parte. Ma una volta che dovesse arrivare il sì oggi alla sua riforma, che succede al Senato? Si arriverà anche alla spaccatura del Partito Democratico? La strada è molto stretta, questa è la frase che ammette Bersani e sulla quale ci si interroga sul futuro del Partito Democratico. C'è anche un'intervista a Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, che al Corriere della Sera dice, ma insomma risponde al D'Alema di ieri molto critico nei confronti di Renzi. D'Alema dice che Renzi interloquisce troppo con Verdini, risponde così Chiamparino: una battuta un po' livida quella di D'Alema, forse un po' deluso, si aspettava di avere un rapporto diverso col premier. Certo è un D'Alema un pochino rancoroso, forse ha dimenticato di quando ingiustamente c'era lui al posto di Matteo e veniva impropriamente accusato di scendere a patti con Berlusconi. Poi Chiamparino parla di poteri forti: quando sento parlare di poteri forti e massoneria stento a capire, sono argomenti usati quando si vuole screditare qualcuno a prescindere. E poi sulla vecchia guardia del PD dice Chiamparino: anche in quel mondo lì, se non si buttano all'aria un po' di cristallerie, non si riesce a fare un arredamento. Sta di fatto che il PD è diviso. Io quando leggo questi, vedo queste infografiche sul Partito Democratico, oggi c'è su Repubblica, scoppio veramente, sono tra il rassegnato, dico io, tra lo scoppiare a ridere oppure un po' stupito. Guardate pagina 6-7 di Repubblica, avete presente quelle infografiche in cui c'è il simbolo del PD al centro e poi c'è, eccoli qua, i renziani, Del Rio, Guerini, Serracchiani, Franceschini, Fassino, poi ci sono i riformisti, Cupero e Speranza, la sinistra del lavoro, Fassina, Cofferati, Damiano, i giovani turchi, Orfini, Verducci, Orlando, poi c'è Civati che non si sa bene, sta con se stesso, forse sta più fuori dal PD che dentro il PD, poi la vecchia guardia, D'Alema, Bersani, insomma un reticolo di varie correnti all'interno del Partito Democratico. C'è anche il retroscena di Giovanna Casadio: il premier gioca l'ultima carta, e cioè la riforma in vigore a tappe, ma la minoranza vuole la conta. Ecco, questo è il clima all'interno del Partito Democratico. Come andrà a finire lo vedremo oggi. Intanto il Corriere della Sera, che qualche giorno fa col celebre ormai editoriale di Ferruccio De Bortoli ha attaccato molto frontalmente Renzi, oggi con Enrico Marro fa un articolo molto critico nei confronti dei sindacati. Già il titolo emblematico a pagina 5, il rito del tavolo tra CGIL, CISL e UIL, specchio di sindacati deboli e divisi. Racconta Enrico Marro, la riunione oggi dei vertici di CGIL, CISL e UIL è la rappresentazione plastica di uno dei momenti più difficili della storia del sindacato. Attorno al tavolo, nella sede della CISL, attesi i segretari generali delle tre confederazioni. Però Bonanni ha lasciato, Angeletti sta per lasciare. Insomma, sono 13 anni, scrive Marro, che CISL e UIL sono disposte a discutere di togliere l'articolo 18 purché solo ai nuovi assunti, e la CGIL no. Come faranno a mettersi d'accordo su una mobilitazione comune? Tanto più che CGIL e Fioma hanno già programmato una manifestazione nazionale il 25 ottobre, mentre la CISL iniziative territoriali per il 18, ma non a difesa dell'articolo 18, bensì per chiedere politiche per la crescita. E poi volete sapere infine come la pensa Angeletti? Discutiamo pure di articolo 18, ma sia chiaro che per chi ce l'ha non si tocca. Insomma, siamo alle solite. Il sindacato si arrocca a difesa degli iscritti, per la metà pensionati, per il resto lavoratori pubblici e della grande industria. Comprensibile, ma miope. Ecco, questa la critica ai sindacati. Tra l'altro c'è un'intervista a Bonanni della CISL, questo sulla Stampa. Bonanni che dice: sì, io andrò oggi all'incontro anche se sono uscente, ma andrò all'incontro insieme ad Anna Maria Furlan che mi succede alla CISL. E poi Bonanni che dice: il sindacato deve cambiare i suoi riti. Ma come? Alla vigilia dell'ennesimo rito, oggi quello dell'incontro, Bonanni che dice cambi i suoi riti il sindacato. Tra l'altro smentisce di voler entrare in politica. Ma quale politica? Mi sto guardando attorno, un'università italiana mi ha chiesto di spiegare ai giovani le nuove regole del mercato del lavoro. Così Bonanni, che poi a proposito della politica dice: ma dov'è la politica? Dov'è il campo? Non si capisce. Chi invece pensa alla politica è il patron della TOZ, Diego Della Valle, che ha criticato il premier nei giorni scorsi definendolo una sola, insieme peraltro a Marchionne, due sole, e che pare voglia andare in politica, secondo addirittura alcune dichiarazioni molto, molto aggressive. Sarebbe pronto a mettere una lista dei ministri per andare direttamente da Giorgio Napolitano. In ogni caso, tutti i giornali si interrogano sulle mosse di Diego Della Valle. Lo fa per esempio Nicola Porro sul Giornale, nella sua rubrica del lunedì. Eccolo qua, i segreti di Della Valle è il titolo di prima pagina del Giornale. Nicola Porro scrive: Diego Della Valle è volato a Parigi per lavoro, ci rimarrà per i prossimi 2 o 3 giorni. Non esattamente il comportamento di chi sta mettendo in piedi un partito in fretta e furia. Prima di tutto però viene la sua azienda, poi si vedrà. D'altronde, se può permettersi di parlare duramente prima di due banchieri top del paese, Geronzi e Bazzoli, poi del primo gruppo editoriale italiano di cui azionista RCS, poi dell'azienda delle aziende, la Fiat, e infine del Presidente del Consiglio che vola nei consensi, vale a dire Renzi, è perché la sua azienda va molto bene. Questo dunque l'esordio dell'articolo di Nicola Porro, e quindi può fare tutto questo perché ha il suo miliardino di fatturato nel lusso che cresce da anni e macina profitti senza sosta. Il partito per ora non c'è, ma se Renzi non cambia velocemente strada, Della Valle si butta. A chi gli sta vicino ha detto: se il fiorentino non la smette con gli annunci e non organizza la compagine di governo, sono aperte 100 ipotesi diverse. Sì, ma cosa farà Diego Della Valle? Tutti si interrogano su questo. Per il Fatto Quotidiano avrebbe già il nome per il suo premier, vale a dire il governatore di Banca Italia Ignazio Visco. Della Valle ha pronto il suo premier, Visco, pagina 2 del Fatto Quotidiano. Solo che uno legge Repubblica, pagina 2 e 3, e il titolo dell'articolo di Federico Fubini è questo: l'altolà di Visco e Draghi, non faremo un governo dei poteri forti. Venerdì scorso, racconta Repubblica, Ignazio Visco era sul Mona per un discorso sulla carriera di Carlo Azeglio Ciampi. Proprio ora che il suo nome corre nel mondo politico, il governatore della Banca d'Italia doveva ricordare il percorso di un suo predecessore che 21 anni prima si era dimesso per andare a Palazzo Chigi. Ma Visco definisce irripetibile la situazione in cui Ciampi, nella crisi politica del 93, passò dalla Banca Centrale al governo e descrive come unico quel passaggio di carriera dell'ex presidente. C'è un altro poi, Mario Draghi, che viene spesso evocato, e che racconta Repubblica non dà neppure tempo a queste voci che lo danno come possibile a capo di un governo dei cosiddetti poteri forti. La sua agenda di lavoro in BCE è già abbastanza piena, con l'Italia e il suo debito in continuo aumento tra le grandi fonti di preoccupazione. Insomma, che farà Della Valle? Della Valle ha pronto Visco, Visco fa sapere di no, Draghi non ci pensa neppure. È gran mistero, è gran mistero. Ma sa tutto come sempre Mauro Meazza. Mauro, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. No, devo dire che della materia non sono informatissimo, o perlomeno non ho ricevuto offerte di sorta, ecco, vorrei precisare questo anche per tranquillizzare gli ascoltatori. No, invece volevo parlarti un po' di Jobs Act, immagino che, come dire, un pochino il tema del giorno. Parlato, ecco. No, perché sono solo 24 ore, noi stamattina ricordiamo un aspetto del Jobs Act che ieri è stato anche un po' evocato dallo stesso Presidente del Consiglio, cioè tutto il sistema degli ammortizzatori sociali, quindi dalla cassa integrazione alla ASPI, la mini ASPI, l'una tantum e così via, perché quello, con il massimo rispetto per l'articolo 18, è un affare abbastanza importante che interesserebbe 12 milioni di noi, cioè 12 milioni, scusami, di loro, perché 12 milioni di lavoratori, parliamo di lavoratori, quindi tu e io, come è noto, siamo esclusi in radice. Però appunto questo tipo di riforma viene descritto, i piani di riforma di questi ammortizzatori sono oggi ricordati sul Sole 24 Ore. Poi naturalmente la TASI, caro Alessandro, stai studiando? Sì, sì, sì, come no. Come no, certo. Vabbè, allora guarda, per favorirti, oggi mettiamo ulteriori risposte da parte degli esperti. Ricordiamo, TASI non è solo prima casa, può anche gravare su altri tipi di immobili. Poi c'è un dossier online sul sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com, e poi ancora in edicola trovi anche una guida, quindi insomma i libri te li abbiamo dati, libri digitali, insomma ti abbiamo dato tutto, adesso veramente non hai più scuse, guarda che da domani interrogo. Benissimo. Questo punto, perché no, facciamo da dopodomani che entriamo, ecco, in ottobre, ti ringrazio, entriamo in ottobre e così ti prepari a questa scadenza. 24 ore guadagnate. Come peraltro tutti noi. Sì, 24 ore, il 24 è un numero che mi sta abbastanza simpatico, come puoi immaginare. Hai visto che parliamo dei minimi di questa riforma del fisco, non ci riferiamo alle prestazioni delle nostre squadre di calcio quando parliamo di minimi, ma invece di contribuenti minimi, no, non di calciatori minimi, no, ti voglio rassicurare. Non vuoi parlare. No, oggi no. Preferirei non farlo, sinceramente, un garbato silenzio anche da parte tua mi sarebbe gradito. E poi naturalmente c'è molto altro, adesso non è che posso in così pochi minuti dirti di tutto, però ti segnalo tra le altre cose la disponibilità, sempre in materia di lavoro, dei giovani a cercare lavoro, a spostarsi per cercare lavoro e quant'altro. È un interessante sondaggio che riportiamo nelle pagine di non Norme e Tributi, ma questa volta, ma di Imprese e Territori. E allora Mauro, nel lasciarti io volevo farti sentire una cosa. Ti ricordi Aldo, Giovanni e Giacomo? Sì, certo. Beh, non mi ricordo. Siamo tuttora attivi. Ti ricordi nel senso un film, Tre uomini e una gamba? Sì. Vabbè, ma senti questo passaggino. Tu non hai mai rischiato. Una volta ho messo due fisse a Intercagliari. Una volta ho messo due fisse a Intercagliari. Che ha fatto questo scherzetto, vero? No, oggi c'è Gianmarco Ferronato in regia, ma che è interista peraltro, ma l'ha trovato Miriam Luchetti, questa chicca, perla cinematografica. Questo dimostra che se vuoi una cosa veramente cattiva devi chiederla non a un uomo ma a una donna. Va bene. Un caro saluto, anche un caro saluto alla nostra amica Miriam. Bene, tutto ciò premesso, traffico. Vabbè, in questi scampoli finali di rassegna stampa sempre più corta, che dobbiamo dire? Allora, per quel che riguarda l'intreccio della Valle, nuovo governo, della Valle in politica, il giornale poi si lancia in una interpretazione che è questa, come racconta Gian Maria De Francesco a pagina 3. Sapete chi lavora da Della Valle da 3 anni alla Todds in America, a New York? La figlia di D'Alema, eh? E qui quindi l'intreccio si aggroviglia. Se la figlia di D'Alema, che attacca Renzi come Della Valle attacca Renzi, lavora da Della Valle. Vabbè, intanto dall'altra parte Forza Italia vede il dubbio del sostegno al governo. Il sostegno al governo spacca Forza Italia, così pagina 6 del Corriere della Sera. Sapete che c'è questo dibattito all'interno di Forza Italia, se sia possibile, in caso di ovviamente rovesci del PD, di divisioni, spaccature, che Forza Italia possa diventare una stampella al governo, cioè possa diventare un sostegno al governo al posto del nuovo centrodestra, e su cui ci si dibatte, insomma, tematiche di politica stretta. Gli esteri. C'è da dire che a Hong Kong c'è subbuglio, per dire così. Ci sono delle manifestazioni da parte di Occupy Central a Hong Kong, vogliono più democrazia, combattono contro il governo cinese, e ieri c'è stata una repressione abbastanza violenta. Disperdetevi o spariamo, così parte la repressione a Hong Kong. Per esempio il Corriere della Sera racconta delle centinaia di candelotti lacrimogeni sparati dalla polizia, le cariche, una pioggia di manganellate. Eccola la sfida democratica tra i grattacieli di Hong Kong, che è diventata una battaglia urbana, un inseguimento strada per strada. L'ordine del comando è arrivato ieri alle 6 del pomeriggio. La polizia ha stretto il cordone, gli agenti hanno indossato maschere e antigas, hanno cominciato a sparare e a spargere liquido urticante contro la prima linea dei dimostranti che si proteggevano con gli ombrelli. È il tentativo di repressione. C'è anche un'intervista a Chan Kim-man, professore di sociologia, cofondatore di Occupy Central, che dice: noi manifestiamo contro gli ordini del governo centrale di Pechino, quindi siamo pronti ad essere arrestati. Siamo professori, intellettuali, bravi cittadini, consapevoli di quel che facciamo, anche se pacifico e anche se considerato illegale. Se ci arresteranno, non ci faremo difendere da avvocati. Bloccando il centro violiamo la legge, ma lo facciamo per suscitare la consapevolezza, la discussione della gente, la loro simpatia. Dunque, questo potrebbe essere il nuovo fronte di tensioni internazionali, il nuovo fronte da seguire. Mentre per quel che riguarda la cronaca italiana è terribile la cronaca, come abbiamo sentito nel giornale radio, di questa persona che, ubriaca al volante, ha travolto e ucciso 4 persone, tra queste anche il proprio fratello, che erano in un bar tranquille a discutere, a bere qualcosa, a vedere la partita di calcio, e ieri è piombato con la sua auto a 100 km all'ora, travolgendo appunto a Sassano in provincia di Napoli 4 persone, uccidendole. 4 vittime tra i 14 e i 22 anni, sedute ai tavoli del bar di un piccolo centro. L'investitore 22enne era alla guida di un'auto potente, andava a forte velocità. Ha ucciso tra l'altro anche il proprio fratello in questa folle corsa di cui parlano tutti i giornali. Vabbè, c'è tempo per ricordare che cosa? Che, come racconta il Messaggero, le auto blu nei ministeri si stanno facendo i calcoli, le vendite sono andate male su eBay. Ah, avete comprato per caso un'auto blu dal governo? Bah. Comunque, si stanno facendo i calcoli e si è scoperto che 1200, come racconta il Messaggero, sono le auto blu di troppo nei ministeri. 1200, lo racconta Francesco Bisozzi a pagina 6. È operativo il decreto che fissa il limite di 5 auto blu a Dicastero. 1200 sono di più, però le aste su eBay sono un flop, non hanno dato i risultati sperati, e quindi che fare di queste auto blu? Che si fa di queste auto blu? Sempre Messaggero racconta che sapete quale professore si è seduto in cattedra al congresso degli urologi e tutti gli urologi erano lì pronti a prendere appunti? Ebbene sì, Rocco Siffredi, per la prima volta invitato in un convegno scientifico a parlare, indovinate di che cosa, visto che era il congresso degli urologi, potete ben immaginare. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi stravince il Corriere della Sera con Massimo Gaggi, io non ci volevo credere, dedica una mezza pagina intera a nonno Bill, pazzo di Charlotte, la nipotina di Bill Clinton e Hillary Clinton. Mezza pagina dell'inviato del Corriere della Sera sulla pazzia dei nonni. I nonni Clinton sono diventati nonni di Charlotte. Ma chi se ne frega!